Allora, buonasera, iniziamo questa presentazione, doppia presentazione di due libri delle edizioni del Verri, della Collana Rossa, che sono qui. Uno è Figure del tempo sospeso di Pancrazio Luisi e l'altro di Antonella Doria, Millant'anni. Ma per iniziare, do lo spazio a Vittorio Chessa, jazzista e compositore, che rompe il ghiaccio, che è il lavoro più difficile, quindi te lo lasciamo fare a te. Poi ricominciamo. Vittorio, tu ci aiuterai adesso a passare da un libro all'altro e a comporre questa doppia presentazione. La mia amica. Presentazione. Dunque, per prima cosa vorrei ringraziare Cox 18 che ci dà questo spazio, anche perché è la primissima presentazione della Collana Rossa. Con il primo volume che abbiamo pubblicato, che era quello di Giulia Nicolai, Cos'è poesia? l'abbiamo fatto proprio in via Calusca, presso la libreria edizioni Shake, quindi per me è veramente un grandissimo piacere essere qua. Oggi presentiamo, come vi ho detto prima, due libri della collana. Questo di Pancrazio Luisi, Figure del tempo sospeso, ha avuto la sfortuna di uscire un attimo prima che il Covid ci piombasse addosso, e quindi sono stati 2 anni duri per tutti e non siamo riusciti a festeggiare questo libro che merita, quindi questa è la prima volta che finalmente lo facciamo e speriamo anche di avere altre occasioni. È un libro di brevi prose, ogni pagina ne contiene una, può essere di 5 righe, di 10 righe, sono micro racconti, magari spesso c'è un personaggio oppure un oggetto, una situazione. C'è una prima parte che si svolge in un paese del sud, in una situazione molto dura, arcaica. Dalla quarta di copertina possiamo pensare che sia forse il paese dove Luisi è nato, Tricarico, in Basilicata, ma potrebbe essere anche un altro posto di questo tipo, dove la vita è dura, ci sono questi mestieri, dove c'è la fatica, e così. Poi ci si sposta al nord, in una grande città, si riconosce Milano, anche perché ci sono cose che le vie, i toponimi che ci aiutano a capire che siamo lì all'inizio degli anni 50. C'è una parte molto divertente che si intitola Confessioni di Lungo De Genti, dove Luisi fa parlare dei personaggi in prima persona e dice: mi chiamo Carmelo Sciortino, e poi questo racconta la sua storia di vita in una casa di cura, oppure il mio nome è Franco Nicoletti, e va avanti così, ogni pagina una figura che parla in prima persona. E quindi siamo sospesi in questo tempo perché sono dei flash, sono dei micro racconti molto contenuti, molto tenuti nella scrittura, ma anche perché c'è una sospensione dell'io che racconta. Il lettore che appunto viaggia in questo libro, fa un viaggio nello spazio ma anche nel tempo, quando passa da un racconto all'altro si chiede: ma chi è che parla? Ma chi è che lo dice? Ma chi è che ci racconta? E invece l'abilità di Luisi è quello di trattenersi, di non fare un ipertrofismo del proprio io, è sempre molto molto trattenuto. Vi leggo solo una breve prosa per farvi sentire un po' qual è la lingua che Luisi utilizza in questo libro, ma poi chiederò a Luisi di leggere, che legge molto bene. Tratta dal capitolo finale, Il treno in corsa, che è più contemporaneo, e forse questo treno alla fine è andato a sbattere, non lo sapevamo, ma è così. Allora, la numero 4 di questa sezione. La trave del soffitto di legno presentava diverse fessure, ma diceva: non sono segni di cui aver paura. La volta è solida, sono fratture orizzontali che non fanno male, come certe rughe d'assestamento, visibili sul volto di un uomo maturo. Sono indizio di animo forte, collaudato, cimento. Ecco, quindi io direi, Passo la parola a Franco Romanò, che si occupa di questo libro, e forse dopo introduco il tuo, Antonella. Ok. Buonasera a tutti e a tutte. Allora, figura del tempo sospeso. E prima, in una conversazione, prima che cominciasse la presentazione, parlandone con Pancrazio, viene fuori il discorso della prosa poetica. Ecco, io non, rispetto a questo libro non sarei molto d'accordo su una definizione di questo tipo, perché la prosa poetica ha una tradizione che viene, vabbè, da Baudelaire, che in Francia in particolare ha avuto addirittura un riconoscimento massimo con il Nobel all'Ecclesio. Però la prosa poetica, almeno per come la intendo io, è fatta di, come dire, evocazione di atmosfere nella quale però la narratività, il racconto non c'è. C'è semplicemente l'evocazione di un'atmosfera, di un luogo, eccetera. A me sembra invece che questo libro sia a tutti gli effetti un libro di narrazioni brevi. Cioè qui la narrazione è centrale, ed è tanto centrale che noi riconosciamo in questi frammenti, se li leggiamo dall'inizio alla fine, poi ritroviamo la storia, ritroviamo il sociale, ritroviamo Milano, ritroviamo l'Italia dagli anni 50 fino a dove? Ecco, qui pongo un punto interrogativo, perché semmai è qui che vorrei sentire anche poi Pancrazio stesso, metto un punto interrogativo sul dove finisce questa narrazione. Allora, naturalmente è una narrazione frammentaria, perché? Beh, innanzitutto perché, vabbè, insomma, le lezioni della modernità le abbiamo imparate tutti, cioè con questo non voglio nemmeno dire che non si possa scrivere un romanzo, forse qui ha ragione Scurati, solo scrivendo un romanzo storico si può essere meno frammentari. Però alla storia si può arrivare anche attraverso frammenti che diventano emblematici. E secondo me questo è il caso del libro di Pancrazio, che è diviso in parti, e i cui titoli però esprimono già molte cose. La fortezza abbandonata, sì, la fortezza abbandonata è il sud, ma mi verrebbe da dire è il mondo contadino. E infatti io scelgo come primo ingresso nel libro il racconto 26, dove si dice: «Nell'apoteca dello Scarparo si lavorava certo, ma si beveva in allegria e si giocava a carte. La posta in gioco poteva essere anche un paio di scarpe. La produttività, un concetto sconosciuto. D'altronde, perché affrettarsi se il contadino pagava l'anno dopo? Persino i quattro ricastri del paese mica pagavano cash. Di moratoria in moratoria, tanto valeva giocarsela la giornata con qualche scampolo di filosofia spicciola». Ecco, mi interrompo prima del finale, perché qui c'è la cesura, che è un taglio di maglio secondo me straordinario, ma la storia avrebbe preso un altro corso. Allora, qui siamo nell'Italia prima della rivoluzione neocapitalistica, siamo nell'Italia non solo agricola, siamo anche nell'Italia in cui i rapporti capitalistici nelle campagne non avevano ancora assunto quella pregnanza che avrebbero assunto in altri momenti. Quindi, voglio dire, siamo proprio in un mondo altro che è destinato a scomparire. Di questo mondo però non è che Pancrazio Luisi ne abbia una figurazione di tipo idealistico, infatti non lo leggo, ma ve lo consiglio di leggerlo, perché al raccontino numero 30, che ha protagonista un bambino, è un padre e un altro, si capisce chiaramente dove non c'è nessun idealismo. Quei rapporti erano rapporti sociali tremendi, anche quelli, non è l'idealismo, ecco, in questo senso non c'è l'idealismo pasoliniano in questi testi, ecco. Però appunto la storia prendeva un'altra direzione, e qual è questa direzione? Beh, è il primo intermezzo, il quadrante di sud-est, siamo a Milano, qui è già stato detto dalla presentazione, qui c'è una galleria di vie, di strade milanesi intorno al Corvetto, che è assolutamente straordinaria e che è al tempo stesso surreale, perché davvero quella realtà lì non c'è più. Cioè, è una realtà industriale, già, ma è una realtà industriale che è destinata a cambiare in un tempo rapidissimo. Ed infatti poi, tutto sommato, la Milano vera noi la incontriamo nella parte seconda di questa parte, e cioè in teatro sociale, e dove appunto si comincia con il pezzo, con il primo, 01, dove, non lo sto a leggere perché è uno dei più lunghi, ma che comincia: il condominio era occupato quasi tutto da immigrati veneti, toscani, emiliani, pugliesi, lucani e calabresi. E qui c'è tutta la Milano della fine degli anni 50, dell'inizio degli anni 60. Non vi dico cosa succede qui. Succede un fattaccio, un bambino fa la pipì dal balcone, e lì viene fuori tutto il razzismo della milanesità di quegli anni, che poi verrà metabolizzata, voglio dire, la grande fabbrica poi trasformerà, potendo, gli stessi immigrati dal nord, certo, e come no, ah sì sì sì, anche dagli stessi immigrati al nord, come no, figuriamoci, i veneti, i piemontesi, come no. Quindi è la Milano che si appresta a diventare la Milano degli anni 60-70, soffiamo un tempo, cioè, cito proprio a volo d'uccello, perché, come dire, ci sono degli incipit che sono significativi in sé. Soffiava un vento nuovo che si divertiva a sorprenderci. Quando ci si aspettava che arrivasse da est, ecco che invece arrivava da ovest. C'è anche molta ironia, no, in quello che dice, perché in effetti, ma veniva dalla Cina o dagli Stati Uniti o da Berkeley, era difficile capire, veniva da tutte e due le parti, ma poi boh, chissà. E quindi in questo gioco di questa Milano in cui arrivavano gli echi della B-Generation e contemporaneamente alla rivoluzione culturale cinese. Salto una serie di episodi, ma sono tutti da seguire con... E la Milano... Poi forse che io su questa parte sorvoli di più, perché è la Milano che credo che in un luogo come il Conchetta sia una Milano assolutamente ultra conosciuta, anche perché il Conchetta e Moroni ne sono stati tra i grandi protagonisti. Ecco, E arriviamo alle confessioni dei lungodegenti, che devo dire è la parte che sotto certi aspetti mi ha spiazzato di più, perché mi sono domandato quale fosse il senso di questa antologia di Spoon River dei viventi, però, perché questi, oppure di viventi che hanno, sono quasi alla fine, ma comunque viventi. E in effetti poi mi sono reso conto che in queste figure c'è dentro un po' di tutto. Cioè, dal manager all'operaio, al malato che, come dire, che di fronte alla malattia capisce anche di essere fuoriuscito dalla frenesia milanese, perché c'è anche questo, c'è come il momento, non so, questa è una domanda che io pongo, era un modo di dipingere quello che è diventato il riflusso dopo gli anni 70? Era un modo di affrontare questo momento fuori dagli schemi lotta armata, fine della lotta armata, fine della militanza, eccetera? Me lo sono chiesto ed è una domanda che faccio. Intendiamoci, i ritratti che vengono qui dipinti sono tutti molto forti. Non vi è in questo libro, devo dire, è difficile scegliere un racconto da un altro. Sono davvero tutti estremamente puntuali anche nella loro brevità, nella capacità di fermarsi al punto giusto che hanno. E poi l'ultima parte, il treno in corsa. E il treno in corsa, come dire, il treno in corsa vuol dire molte cose, vuol dire è un'accelerazione della storia che però indubbiamente ci porta indietro. E io infatti qui vorrei leggere questa volta per intero il pezzo numero 8, perché forse è quello anche che ci aiuta a collocare il momento davvero in cui c'è una cesura drammatica. Il paese era ancora unito, ma qua e là si avvertivano segnali che al momento, mancavano 6 mesi all'inizio della carteficina, erano difficili da decifrare. Strani movimenti di soldati, qualche improvviso blocco stradale in certi locali, si vedevano aggregazioni opposte di avventori secondo la foggia del vestito. Nell'isola di Pag comprava il vino e qualche forma di formaggio da portare a casa a fine viaggio da un contadino che in italiano stentato ma efficace diceva che l'America, l'Europa e il Vaticano avrebbero appoggiato loro perché cattolici. Come poteva immaginare che in quella voce dimessa, in quelle parole elementari, fossero già all'opera i preparativi dei prossimi orrori? Ecco, io credo che qui Pancrazio Luisi abbia un'intuizione molto forte, perché collocare il momento in cui la storia ha cominciato a ricorrere al contrario, si potevano scegliere i 40.000 della Fiat, si potevano scegliere tutta una serie di esempi, eccetera. Invece la scelta dei prodromi della guerra jugoslava mi sembra una scelta davvero fondamentale. E visto che questo libro lo ha finito prima che ci fosse il Covid, prima della guerra in Ucraina, insomma, mi sembra che qui ci siano molte cose su cui riflettere e pensare. Io mi fermo qui. Leggi qualcosa? Leggi, leggi qualcosa. Certo, leggi quello che ti piace. Quella? Quella che ti piace di più. Tutto il libro. Tutto il libro. Sono tutti figli miei. Certo. Sono tutti figli tuoi. Almeno il 90%, come dice Angelo. Posso anche aumentare. 10, si può anche aumentare. Va bene, dai, grazie. Va bene, allora parto da... Arrivo, Leggo qualcosa che ha citato Franco Romanò, diciamo, a secondo un po', se volete, il percorso. Il condominio era occupato quasi tutto da immigrati, veneti, toscani, emiliani, pugliesi, lucani e calabresi. Gli appartamenti avevano la doppia esposizione. Da un lato le camere con vista sul gasometro, dall'altro lato si vedeva il palazzo di fronte al quale si condivideva un cortile interno, abitazione di tipo civile che in pratica voleva dire né popolare né signorile. I pochi aborigeni avevano sulle targhette delle porte strane sigle che precedevano il cognome. Raj Gorla, oppure Geom Radice. Qualcuno ancora più strampalato esibiva un Feroldi Raj Roberto o Margutti P.I. Mario. Da un appartamento al quarto piano dove abitava una famiglia di origine lucana o calabrese, un bel mattino di primavera uscì sul balcone un bimbo di circa 2 anni. Si abbassò l'unico indumento che indossava, si avvicinò alla ringhiera fino a toccarla col pancino e puntò il pistolino in direzione del cortile. Ne venne una pioggerella primaverile che andò a chiazzare qua e là un pezzo di cortile e la testa cotonata di una signora che imputò il fastidio a qualcuno che stava annaffiando ai piani alti. L'increscioso caso non sfuggì però alla portinaia, che corse subito dall'amministratore che aveva l'ufficio proprio nello stesso stabile. È uno scandalo, ripeteva, questi sono selvaggi africani. Al padre del piccolo fautore della libera minzione fu recapitata una lettera dall'amministratore, ragioniere, eccetera, eccetera, nella quale si faceva menzione di alcuni articoli del regolamento e si esprimeva riprovazione per un comportamento così incivile che forse affondava le radici in costumi vigenti in popolazione ancora allo stato brado o provenienti da situazioni abitative arcaiche. A nulla valsero le scuse dei genitori, in particolare della madre, che cercò di far capire che quella non era un'abitudine, che anche loro, insomma, erano persone civili, ci mancherebbe, ma il contenuto della lettera era ormai di dominio pubblico. Chi poteva aver divulgato una lettera che doveva rimanere riservata? Nei commenti di alcuni immigrati di area tosco-emiliana si sentì dire: ma quei terroni hanno preso il cortile per il water. Vabbè. Per fortuna si spera che siano passati. Leggo ancora qualcosa? Sì. Ehi. Dai. Vabbè, visto che siamo in tema di minzione, vi leggo un'altra minzione di tutt'altro tenore e collocazione geografica. Girava per le vie di pietra del quartiere Rabatano, tra l'abbazia e la fontana pubblica, una vecchia sanculotta che all'occorrenza, nascoste dall'ampia veste a campana, divaricava le gambe e, come assistesse a un evento della natura, allagava un angolo di strada, uno scrosciare di cascatella come si poteva ascoltare di una mula quando veniva presa dalla stessa urgenza. Anche a me è capitato di vederla una cosa così. piena via, via Tadino. Il cinema era sempre gremito, specialmente quando venivano proiettati film western o di Totò. Sebbene non vi fosse un esplicito divieto, erano pressoché assenti le donne, a parte qualche emancipata che non scuoteva certo il plauso né del mondo femminile né di quello maschile. Durante alcune proiezioni si respirava un'atmosfera da bolgia quasi surreale. Chi si alzava in piedi, chi urlava, oppure Caio che chiamava Tizio che stava dalla parte opposta della sala. C'era chi, avendo visto il film per la seconda o terza volta, implorava ad alta voce il personaggio del momento a fare o non fare la tal cosa, a estrarre la pistola prima dell'avversario, oppure a non ingoiare il veleno che l'avrebbe ucciso. Questo è bello. Operaio spesso disoccupato, 20 anni, la domenica indossava una camicia rossa, fresca di bucato, e stirata, e rossa come la bandiera. Con spavalderia ostentava quell'indumento a chi nutrisse il minimo dubbio sulla sua appartenenza politica. Orrore e spavento suscitava nella infima piccola borghesia democristiana. Prese subito, come tanti, la via dell'emigrazione. A Milano con orgoglio diceva che lavorava alla Montecatini. Poi vi leggo una cosa del quadrante sud-est. Via Riva di Trento era una via brutta e buia di sera. Di bello c'erano una fabbrichetta e una balera. Era una strada sconnessa, costellata di buche d'inverno e di pozzanghere fino a primavera. Più che altro il problema si poneva il sabato sera e la domenica per l'accesso alla balera. Maria, che si faceva chiamare Vanessa, ci camminava con i tacchi a spillo come chi a piedi nudi cammina sui carboni ardenti. Prima Franco vi chiedeva un po' l'arco temporale implicito in questa sequenza, diciamo, di racconti. Ovviamente comincia subito col primo dopoguerra e la data emblematica con cui finisce il 2001, con le Torri Gemelle sostanzialmente, finisce nel 2001, quindi mezzo secolo grosso modo, tanto per dare qualche... Allora, poi vi leggo qualcosa da Confessione di Lungo Degente, anche su questo poi dirò due parole magari. Mi chiamo Carmelo Sciortino, sono stato repubblichino volontario in Libia. Vi ho raccontato qualche frottola, lo ammetto, per esempio che non temo il dolore. Vi ho deriso per i vostri lamenti, gente senza spina dorsale, individui di razza inferiore. Anche questo vi ho detto. Stamane mi ha parlato il primario, che avrà anche voluto fare dell'ironia, ma io ci sono rimasto male, ma male da morire. Ma sentite cosa mi ha detto papale papale. Caro signore, il suo stomaco è da asportare. Lo sostituiremo con uno tutto nuovo. Ha delle preferenze? Ne abbiamo di ottimi, di pecora o di capra? Ora basta, non ho più voglia di parlare e non mi muovo più dal mio lettino. Vabbè, ecco, per rispondere alla domanda di Franco, io ho voluto inserire quella sezione, Confessione di Lungo Degenti, il cui riferimento fisico, materiale, altro non è che l'avrei potuto chiamare Niguardeide, insomma, Niguarda in sostanza, dove io ho soggiornato ben due volte la prima volta per 94 giorni e la seconda per 90 giorni. E per cui ho visto passare davanti a me legioni di malati, evidentemente, che soggiornavano un po' meno di me, e quindi io ne ho visti tantissimi. Quindi con un campionario tra molto più, io ne ho scelti 10, ma vastissimo. L'ho scelto perché, secondo me, come dire, quel mondo rappresentava bene quello che i sociologi degli anni 70 chiamavano istituzione totale. Non so se vi ricordate il grande sociologo americano Goffman, che parlava, nella sociologia era un classico, diciamo, parlare di istituzioni totali, che erano l'ospedale, la caserma, il carcere, queste erano le istituzioni totali sostanzialmente. Poi in un senso più allargato comprendeva anche altre cose, dove cioè il mondo si fermava in qualche maniera, pur portando dentro come dire, degli emblemi, delle semplificazioni, delle esemplarità del mondo che stava fuori. E quindi c'era dentro lo speculatore che comprava come si dice, un broker sostanzialmente, come si dice oggi, c'era lo spazzino, c'era il ristoratore romagnolo, c'erano varie figure sociali, il pittore, che avevano, ma questo rispondeva veramente a una funzione interna, per quello che ho detto prima, ma anche esterna, ed era una sorta di specchio ulteriore, per esempio, dell'emigrazione. Nei Cameroni, dove stavamo noi, stavamo in 8 per stanza. Però immaginate oggi, 8 per stanza, inconcepibile. Beh, almeno il 60% proveniva da Roma in giù. Sempre c'era il calabrese, il siciliano, il pugliese, persino qualche romano, persino qualche veneto e così via. I milanesi, che si lamentavano e che dicevano che gli rubavano il posto letto in ospedale, erano un'infima minoranza. La stragrande maggioranza, il famoso turismo sanitario, ospedaliero, di cui si è parlato poi 20 anni dopo, 30 anni dopo, c'era già negli anni 70-80, ed era uno straordinario, secondo me, affresco sociale della società italiana, non solo milanese e lombarda, perché arrivavano da tutta Italia. Era impressionante questa cosa qua, e rifletteva anche quello, la divisione fra nord e sud, che c'è ancora, ahimè, non è stata ancora colmata questa divisione, la speculazione sulla salute, il turismo ospedaliero, sanitario, insomma, ecco, questo è un po' tutto. Dopodiché mi piaceva anche proprio focalizzare su alcune figure emblematiche, come c'era per esempio questo repubblichino che tutte le mattine si alzava e faceva un quarto d'ora di esercizi ginnici con gesti militareschi, e si vantava del suo passato repubblichino. Io, se non fossi stato lì steso nel letto, incapace di muovermi, penso che l'avrei preso probabilmente e preso a calci nel sedere, insomma, perché era una provocazione continua del suo pur degente, però della sua superiorità fisica, delle sue qualità giniche, cioè, nei confronti degli altri che erano lì a letto piuttosto conciati male. Quando poi è arrivato il primario e l'ha detto quello che aveva detto, questo qui è crollato miseramente, non ha più aperto bocca per tutto il tempo che è rimasto lì dentro. Cioè, veramente una cosa, e così altri. Beh, mi fermo qua. Ok, bene. E io direi di dare la parola al musicista. Dov'è il musicista? Forza, dai. Sì, dai. Anche perché sono molto diversi. Franco, ma perché ci hanno portato tre bicchieri? C'è un po' di vento. Sono volati via. Non ci ho messo l'acqua. Eccoli qua. Thank you. freddo? No, no. Io mi sono già messa la mia copertina. Grazie Vittorio. Grazie Vittorio. Allora, adesso passiamo al libro di Antonella Doria, Millant'anni, un libro che conosciamo, che amiamo moltissimo e che rappresenta il lavoro che Antonella ha fatto in un periodo di tempo molto lungo, forse 15 anni. Raccoglie tre lunghi poemi. Il primo ha il titolo Mediterraneo e si articola con Mediterraneo corpo, Mediterraneo mare, Mediterraneo acque, eccetera. Secondo poema è Metropolis, che parla di Palermo, la città amatissima, città dove ha vissuto da ragazza Antonella e che Antonella frequenta e continua a tornare. E poi il terzo poema, Millant'anni, che dà il titolo al volume, che è una parte più dolorosa, composta da due sezioni, La peste dell'oblio e Camminando verso, che invece riflette il problema dell'immigrazione, di questo Mediterraneo doloroso. Insomma, io adesso c'è qui Angelo Lumelli che parlerà del libro, quindi non voglio parlare a lungo, voglio dire solo l'esperienza che è stata per me fare questo libro con Antonella. Il testo, la correzione delle bozze, il testo per Antonella non è un segno di penna su un foglio. La correzione, il sistemare quello che poi andrà in stampa parte sempre da una pronuncia, da un momento in cui Antonella riprende rilegge ad alta voce il suo testo ed è lì che si stabilisce poi quello che cade sulla pagina. Perché la poesia di Antonella è piena di sonorità, ma anche di sospensioni, di respiro, di spazi. È una cosa che mi ha sempre molto colpito sono queste parole nuove, questi sostantivi che lei incastra, inventa, mettendo insieme un aggettivo e un nome, due sostantivi. Venendo qui in tram ne ho appuntati alcuni perché è pieno questo tuo libro, come dolce argilla, terra assenza, maschera parola, corpo pensiero. E quindi c'è questo proprio... quello che mi rimane e che quindi è questa lingua sonora di Antonella. Vi leggo solo un pezzo breve e poi do la parola a Angelo Lumelli per farvi sentire un pochino. Poi Antonella leggerai tu. Cuore verde stomaco al neon repellente, quasi balena. Colmo, tutta, roba da mangiare, oscena, mi strozza. Ecco, questo è uno dei pezzi che mi piacciono di più. Quindi, Angelo Lumelli, adesso tocca a te parlare di questo libro di Antonella Doria. Ecco qua. O lo tiro via. Come si fa a passare da uno all'altro tra due libri così diversi, dove nel primo di Pancrazio Luisi uno può anche osare divertirsi un po', in quello di Antonella Doria bisogna stare in un atteggiamento molto più religioso, devoto, quindi, però sentendo leggere Luisi sono venute, c'è qualcosa che sembra collegare i due libri ed è un principio di, che chiamerei di insistenza. Che cosa intendo per insistenza? L'insistenza è quella che genera lo stile, no? Lo stile è qualcosa che si ripete. Dico, se uno non ripetesse un modo di camminare, un modo di vestirsi, un modo di parlare, vuol dire che lo fa più di una volta. Per farlo una volta sola non è uno stile, è un atto ed è finita lì. L'insistere invece significa che niente, che uno ha uno stile o lo sta cercando. Ora, la massima insistenza in Luisi, a parte quel meraviglioso, straordinario elenco di vie di Milano che a leggerle di seguito, perché se uno trattasse soltanto ciò che accade in Riva di Trento, accade in Riva di Trento, ma se appena dopo c'è ciò che accade in piazza Angilberto e poi in piazza Bonomelli, poi in via Romilli, poi in via dei Panigorda, poi in via Mincio, poi in via Olio, poi in via Gardone, uno comincia a avere dei sospetti, a dire cosa sta succedendo. E anche nel grande segmento dei ospedaliero, questo mi chiamo, ripetuto per ogni volta all'inizio, è un segno di qualcosa. Mi sembra che lo stesso identico procedimento accade nelle poesie o nei poemi a questo punto, perché sono poesie talmente collegate tra di loro che hanno un'aria da poema, no? Un insieme di versi che vogliono raccontare una storia, che vogliono raccontare una storia. Ora, in Luisi il grande pregio, secondo me, il grande insegnamento è che racconta una cosa sola, se ne guarda bene dal raccontarne due. Quando gli succede per una svista, secondo me, di raccontarne una e appena un po', il racconto diminuisce la sua imponenza, no? Perché si diluisce, perché sembra più fraterno, più chiacchierino. Invece la severità di dire una cosa e basta ti lascia veramente interdetto. Devi stare lì. E questa è una grandissima lezione. Faccio questi esempi cercando di rapportare due cose estremamente diverse che mai si sarebbero incontrate se non ci fosse questa occasione, perché sono talmente diverse, e talmente diverso è il modo con cui un lettore può goderle, perché ci sono il modo per godere entrambe queste opere, no? Però è non può avvenire allo stesso modo, non può avvenire allo stesso modo. Bene. Vediamo cosa accade secondo me nei tre poemi di Antonella. La prima cosa che ribadisce il principio di insistenza, quindi il principio di uno stile riconoscibile, è che tutte questi poemi, queste pagine dei poemi, che sono tre, guardano verso qualcosa. Il verso qualcosa non è il proprio intimo, non è il linguaggio dentro di sé, è qualcosa che è fuori. È il Mediterraneo, sì, come paesaggio, ma anche come vicende umane, come storia, è Metropolis, e allora è da una parte il capitolo chiamato Lan, Milano, dove Lan probabilmente è una radice, origine di terra o di robe così, e l'altro è Ziz, Palermo, sui quali bisognerebbe avere il modo, anzi poi io penso che Antonella leggerà qualcosa, per vedere quanto lo stile è tutto, perché le poesie dedicate a Lan, Milano, sono estremamente diverse da quelle dedicate a Ziz, Palermo, come se a Milano bisognerebbe andare a cercare il senso, mentre a Palermo è sovrabbondante, ti arriva addosso e non sai più come riparartene. In uno devi cercare senza trovarlo, nell'altro ne hai troppo e devi scappare perché ti sommerge. Vabbè, questi sono poi vedremo. Quindi la poesia di Antonella, poi sentirete leggendo che c'è una strana originalità. Dico strana perché è raro trovarla così testarda, perché non sgarra una pagina, non esiste nessuna pagina che smetta di guardare il mondo che è là. Il mondo che è là viene guardato. E come viene descritto in poesia? Viene guardato allestendo una torre di avvistamento, allestendo un punto di vista. Questo punto di vista, nel passaggio a poesia, perde tutto quello che la lingua ci ha insegnato, cioè nella quotidianità. Perde ad esempio il verbo. Non ci sono quasi verbi se non al presente. La lingua italiana, avete mai, se ci costringessero a noi a parlare soltanto al presente, sarebbe un bel problema, sarebbe un bel problema. Senza poter raccontare il passato, senza poter dire qualcosa rispetto al futuro, io dico nella vita quotidiana. Bene, le poesie di Antonella cominciano proprio innalzando una specie di torre di guardia dove avvistare le cose da dire, avvistare le cose da dire. E le cose da dire che cosa sono? Sono cose, sono prevalentemente sostantivi, qualche aggettivo, qualche incastro tra sostantivi, aggettivi, tra sostantivi, tra di loro, ma sempre con questa penuria del movimento verbale, cioè come se il verbo fosse il grande corruttore, cioè colui che fa cambiare la metafisica delle cose, fa cambiare l'essenza delle cose. Ora, proprio io non vorrei che voi pensiate che sto contando delle frottole, perché magari anche sì, però basta leggere qualche riga anche a caso, Mediterraneo, corpo eterno, sempre frattale, mare di febbre ovunque, d'acque culla rive, di sale lega avvolge, fragile forte terra tribale, annega, si fondono, confondono luoghi. A caso, prendiamo un po' avanti, un po' di più. A margine del caso serve un riparo di vento, necessità e salvezza, terre sospese, verso dove abitare, a volte l'ordine nomade sente, l'ombra sentore di quiete, pagana profana, omnipotenza, torre d'infinita Babele. Voi, per tutto il libro, voi sentite questo tono, che avrà un significato, cioè il significato di una poesia, io penso, non è soltanto quello che dice, ma quello che è, come si pone, come sta sulla pagina, come resiste a dire, perché bisogna resistere a dire, altrimenti non si arriva a fare il verso, non si arriva a fare il poema. Quindi in Antonella Doria c'è una decisione ben precisa che la poesia è quello che Luisi diceva delle istituzioni sociali, qualcosa che alla fine separa da tutto il resto. Cioè, io penso che sia un caso abbastanza raro, e quindi da considerare con attenzione. Il fatto che questa poesia tratta del mondo, quindi in qualche modo ha dentro anche una carica di utopia. Se uno tratta del mondo, tratta anche di un'idea del mondo, quindi il mondo come ha o avrebbe da essere, quindi il mondo che così com'è è mondo doloroso, potrebbe essere, e quindi c'è sempre dentro alla descrizione una volontà di salvezza per il mondo. Ma questa volontà di salvezza non diventa una teoria operativa, diventa una specie di inno, si separa da questa cosa. E allora è una poesia che sta sul bordo del vedere, sta sul bordo per vedere. In questo è il suo coraggio e il riconoscimento anche del suo grande limite, perché la poesia ha un limite, la poesia non agisce, la poesia non fa finire la guerra in Ucraina, per esempio, non ha fatto finire quelle in Jugoslavia, non ha fatto finire quelle del Mediterraneo, di cui è pieno il libro di Antonella. Quindi la poesia è sconfitta verso il linguaggio che opera, ma proprio in questa sconfitta riesce a presentare maggiormente quello che è l'idea che dobbiamo portarci nella mente o l'idea che dobbiamo portarci nel cuore, a ben vedere, a ben vedere. Ecco, un pochino mi viene in mente, perché per alleggerire un po', in uno dei racconti di Luisi, quello del cinema che è straordinario nelle ultime tre righe, cioè che quelli che hanno visto il film già una volta, porco cane, vedono il personaggio e vogliono che non faccia quello che sta facendo, a dire: Cristo, no, spara prima te, oppure vai via da lì, ritirati. Questo desiderio di salvezza o di cambiare il destino che c'è dentro a ogni opera, dentro ogni opera. Io ho una piccola esperienza personale. Da ragazzo, quando ho letto per la prima volta Madame Bovary, veramente mi sembra di ricordare di aver pianto lacrime amare, perché non volevo che prendesse l'arsenico per morire, cioè alla fine che morisse. Forse faceva parte anche di un disegno tremendo della sua vita, no? Di questa signora così affascinante, ma sì, che faceva l'amore in carrozza passando per le vie di Rouen, una roba che da ragazzi sembrava una cosa straordinariamente bella, augurabile, santo Dio, con Madame Bovary. Ma quando povera si rivolge a questi brutti ragionieri, a questi banchieri di terzo ordine per essere salvata dalla rovina economica, e poi quando si decide di morire, veramente chiunque vorrebbe farla morire diversamente. E io penso che Flaubert potrebbe essere corretto e dire: no, hai sbagliato a farla morire, sei un uomo dell'Ottocento, sei un uomo, poteva morire diversamente. Ogni romanzo ha questo dubbio nel cuore, potrebbe andare diversamente, anche I Promessi Sposi, magari erano più divertenti. Chi è che ha rifatto Anna Karenina, ma insomma, no, I Promessi Sposi c'è quel rifacimento straordinario, come si chiama? Guido da Verona ha rifatto I Promessi Sposi, che è una roba da scompisciarci da ridere, veramente, altro che l'urinante, ti scappa veramente dalle risate, come è andata a finire. Quindi, ecco, perché ho detto questo, Antonella? Io stavo parlando di te, poi abbiamo parlato... No, stavamo dicendo che dentro alla tua poesia, secondo me, con molta severità, molto rigore, senza scendere dal gradino dell'altare in cui la metti, perché è così, quel gradino non puoi scendere se non facendo un'azione vile, scorretta. Quindi tu è perfettamente, stai dove la poesia ha da stare, è là, ma questa poesia continuerà a vedere e continua a vedere il mondo dove c'è dentro una volontà di salvezza. E non è soltanto la salvezza, oddio, poi ci sono infinite abilità in questo libro, che non sto adesso ad elencarvi, ad esempio, mancando soprattutto il verbo, i sostantivi non sanno bene a chi collegarsi, se a quello prima, a quello dopo, e vengono fuori delle oscillazioni talmente ambigue, fantastiche, che uno, quindi è un libro da... che non dà una soddisfazione immediata, perché ha questo rigore veramente martellante, però quella è la sua forza. Se poi voi andate a trovare dentro ai singoli versi, voi lì trovate veramente che si illumina la mente e si illumina attraverso una serie di imperfezioni. In realtà questo libro raggiunge le punte più alte dove comincia a balbettare, quelli che balbettano una volta, io vengo da una piccola civiltà paesana e ce n'erano di quelli che tartagliavano, si dice, i quali miracolosamente, mi ricordo da bambino, erano tutti quelli che all'improvviso smettevano di tartagliare, quindi di ripetere la parola con tanta fatica, nel momento in cui cantavano. Allora si cantava di più nelle campagne e questi qua erano quasi tutti dei tenori straordinari. All'improvviso questa voce che saltellava in gola e non riusciva a pronunciare la sillaba, nel canto la faceva esplodere, proprio esplodere. Ecco, è un pochino anche qua, alla fine tutta questa severità, questa punizione quasi che la lingua deve subire, perché sta trattando qualcosa che ha prodotto anche il male, quindi non si può trattare il male con giocosità, e quindi c'è anche un aspetto molto severo in questi tre poemi. Non vi voglio annoiare più di tanto. Mi piacerebbe guardare le cose tecniche, perché in genere sono quelle che sembrano annoiare e invece sono quelle che illuminano di più, quelle che, avendo meno retorica, no? meno metalinguaggio, sono più materiali, più reali, però non possiamo andare avanti in modo. Adesso io direi ad Antonella di leggere qualcosa, poi semmai sul qualcosa che Antonella legge possiamo, nel caso che voi non siate disperatamente stufi, andare ancora un po' avanti, no? Vuoi leggere tu, Antonella, qualcosa? No, sceglilo tu, così... Da quale parte? Io direi forse da Lan, che è quello più drammatico, a mio parere, quello poi è Milano. Lan è Milano. Milano che descrivi te, poi alla fine, vista da quest'altro punto di vista, certo, non narrativo, certo, che si proibisce la narrazione, certo, ma invece oracolare, come l'oracolo, che è Antonella in questo caso, ti abbiamo dato del oddio no della no il pe- allora, guarda della... per me questo libro, che l'ho scritto proprio ogni tanto mi chiedo come ho fatto, perché ero in preda, come diceva Vittorini, ai furori, detto che sei l'oracolo e quindi dovevo buttare fuori tutta questa angoscia che avevo dentro. È stato per me una specie di analisi, ecco. Lo è. Sai, allora, da Metropoli, fai quel che vuoi da Metropoli, secondo me. Sì, là. Sì. Allora, comincio con la seconda parte, qui, pagina 55. Da Lan, che sarebbe una desinenza da... Land, terra, quasi in tutte le lingue indoeuropee. Ma io non riesco a leggere seduta, scusate. Fa niente, come si alza sto coso? Questo fa niente, niente, alza. Lascia stare, leggo così, te lo, guarda. Te lo tengo. Lascia stare, lo tengo così. Eccolo qua. Ecco, va bene, ok. Ok, va bene così. Ciao, grazie tante. Senza memoria di sé, senza passato, questo andare non sapendo, voce inscritta su pietra, metallo, strappi, rotture, scusate, strappi, rotture di tessuto connettivo, di pelle, materia, desiderio, marginalità adiacente, inganna dove guarda. Gravitano luci, voci, parole, eppure affiora. Ci sono nodi, gangli, un apparato di memoria, di pietra, luoghi, pronta a spiare esitazioni di luce, incertezze di infinite sovrapposizioni, sfumature di colori, variazioni, suoni. Alloga da un territorio interiore, dove chiaro, dove scuro, buio profondo, un cielo blu notte allaga. Eppure molte sono voci, corpi metropolitani, invadono rotte, fili, tessuti di terre sconosciute. La città ha transiti veloci, senza memoria di sé, senza passato, questo andare non sapendo, consumando ingordo il fiato. Sono giochi furiosi, ripete, gira la giostra, i cavalli nel cerchio infinito. Sono clown, burattini, prostitute, giocolieri, scommettitori d'esistenze, diverse, uguali, ogni volta la prima volta, percorso ad ostacoli segnato, sempre più nuovo, cambia mai. Chi arriva primo sarà premiato, avrà fatta la festa in regalo. Un lavaggio, candeggio, ogni giorno al cervello, gratis quasi, e t'amore dei. È da lustrare la materia grigia, in cambio della cervice, 3-2 al prezzo di 2-3, te ti docce ruleo cielo, per ceruli sogni, cilestrini e bari, fra lo chemin de fer scegli e la strada ferrata, scegli lo chef oppure il maître, con la chela e il labbro leporino. Sul coccio scrivo il tuo nome, ed era ai tempi che l'ho scritta, era il nome Berlusconi, che era da cacciare via, no? Che nell'antica Grecia, quando si scriveva un nome di uno sul coccio, lo dovevano mandare in esilio a vita. Ecco, ecco, bene, bene. Vi faccio notare una cosa, nel caso non l'abbiate afferrata subito, ed è probabile che no, perché è difficile afferrarla così a voce. In queste poesie viene ripetuto, come nel tuo stradario dalle parti di Ripamonti o Corso Lodi, come all'ospedale, la ripetizione in questa sezione che è l'AN Milano, Milano. Antonella prima, ho l'impressione, quasi rimproverandomi, dice: ma io ho gettato qua dentro, tirandole fuori dal buio, immagini che erano la mia angoscia nel conoscere, erano, no, le ho tirati fuori dall'oscurità, eccole qua, eccole qua. Quindi questa oggettività, questo dire la cosa che si vede, no, la descrizione, ecco, questa descrizione viene oscurata continuamente proprio perché toglie via i verbi, i quali servono per dire umilmente come stanno i rapporti tra le cose, tra i sostantivi. E Antonella li toglie quasi tutti, lasciandoli al presente, no? Dimmi se è vero. Guarda che io l'ho scritto, ma non mi ricordo più niente. Lo vedo io, noi siamo quelli che dobbiamo leggere. Tu l'hai già scritto, ormai sei fregata. Quel che hai fatto, hai fatto. Quod vis facere, ecco, ecco. Senza memoria di sé, continua a tornare. Senza passato. Questo andare non sapendo. Quindi la città è misteriosa. E non soltanto è misteriosa lei, ha reso misteriosi noi. Ci ha tolto via il passato, che è il nostro modo di conoscerci. Se noi non avessimo passato, non sapremmo chi siamo, giusto? No? Quindi noi non sappiamo più chi siamo perché non abbiamo il passato. L'AN Milano ce l'ha tolto, ci ha tolto il passato. E allora c'è questo andare proprio a cercare i fenomeni così come appaiono, che non sono i nostri, però sono quelli che ci circondano. E quindi è una poesia severa, in un certo senso è generosa, cioè vede le cose anche invivibili, che però sono quelle che sono la vita, non sono la nostra consolazione, sono il nostro modo. E poi mi sembra che abbia ogni tanto, ah sì, i transiti veloci, la mancanza di sosta. In questa sezione non c'è sosta, i transiti veloci non consentono l'interiorità, non consentono di andare nel profondo di sé, di stare lì. Cosa che invece avviene a Palermo, in maniera forse esagerata, perché Palermo ha troppo significato che viene dal passato, che ci mette in crisi, perché in che modo lo usiamo quel significato? Qui non ce n'è, bisogna andarcelo a cercare. Ecco, volevo dire, se tu hai voglia, perché c'è qualcosa un po' di leggermente osé, nel senso di teneramente spudorato, ecco, perché quando Antonella trova una parola, difficilmente la abbandona, la usa in tutti i modi, le trova un'altra che sembra, insomma, sembra che ogni parola sia generativa di qualcun'altra, ma non per ragioni di suono, per ragioni di significato, insomma, tutte queste figure retoriche fonetiche più che semantiche, quindi più riguardanti il suono, lei le mette assieme, per cui quando scopre il tram, il suono tram, non lo molla più per 3 o 4 pagine, non lo lascia perché non finisce di andare a trovare dei significati dentro lì. E io vorrei, perché ce n'è, vabbè, proprio in tram, scrivevo in tram, ecco. Anche lui scriveva nel tram, c'è un raccontino che riguardava o il tram o l'autobus, scarabocchiato con tutti i sobbalzi, e poi alla fine sembrava un capolavoro ed era più niente perché erano delle parole, lettere scombinate. Scombinato. Ho letto bene anche il suo, certo, mi sono divertito, ma ho letto bene anche il tuo, è che il suo ha degli aspetti ancora umani, il tuo è proprio religioso, cioè è una grande religione questo libro, per cui è molto più, nel senso, è un libro che fa soffrire di più, perché, ma la poesia del resto è fatta per far soffrire, cioè qualche volta fa anche ridere, però è raro. Io ti direi, oddio, nella introduzione della nostra cara Giulia, viene citata, però mi sembra che sia troppo difficile, a pagina 61, questo dell'AIDS che va in tram, drammatico, eccetera. Non lo so se ne hai voglia e se te la senti, però ce n'è una che invece è proprio divertente, a pagina 63, che ha questa leggerezza, un pochino anche da dire, ma insomma, che termina letteralmente, non lo dico così voi rimarrete contenti. La vuoi leggere? Questa qua, che termina così. È bella questa poesia, sai, è molto divertente. Ah, sì. L'hai scritta? Ti vogliamo compromettere un filino, insomma. Questo è. Io scrivevo in tram, scrivevo come tutti quelli che scrivono, i pezzettini di carta, i librettini. Quindi è normale. Questo è un ragazzo che parla. Senti, orecchie di gomma, gente, una tempesta magnetica, gente, ho l'AIDS, capito? L'AIDS, e non me faccio persuaso. Gente, come fai? Guardi e non vedi? pur io so di carne e ossa, non so trasparente. Tocca, tocca a ca, senti, c'è sto pur io a questo schifo munno, pure se non mi crire, c'è sto pur io, per dispetto, pure da morte, ad avvenire, ma prima a te e poi a me. Tiè, a morte, o sai che è? Gente, alla faccia tua, ovì, io non moro. Solito tran tran, e passo d'uomo il tram, la gran sangottardo, scitta scitta, d'angolo, pensieri sferragliano, corpi e voglie, ovunque portano in giro, in testa c'è Milano, come pugni idee sferra, 124 metri, lab oratorio affittasi. Ma guarda sto stronzo, li ha presi, messi in tasca, e allora per due pezzi di carta non mi merda, ma guarda un po', c'era scritto frutta e verdura, e allora vaffanculo. Beh, avete sentito come il ritmo sia meravigliosamente astuto, soprattutto nella seconda parte, Da noi ne hanno licenziato uno. Che Milan, ragazzi, che Milan. Anche l'Inter sta viaggiando, perché la Juve... Vaffan. E passo d'uomo il tram. La voglia che si sfoglia, materassi la notte per guarire il giorno. I love you, una cifra, e ci sto dentro. Letti per bambini di ferro. Sti parassiti, antibiotici, l'hanno infettata tutta sta città. In un mese riduce le rughe profonde. Praticamente erano flash, immagini di voci, di, per esempio questo delle rughe profonde, era scritto in una farmacia, che passando col tram era una crema miracolosa che riduce le rughe profonde, capito? Cioè, io sin da piccola andavo sempre al cinema con mio papà il sabato sera, per cui ho questa memoria visiva proprio che mi rimaneva negli occhi e la riportavo poi alle mie compagne raccontando quello che avevo visto. Posso consigliarti o chiedere due poesie non troppo lunghe che trattano un personaggio importantissimo? Sì. Verso la fine di questa sezione LAN Milano c'è una poesia, beh, avrete visto, no, i toni cambiano, però sono sempre così martellanti, no? Arriva un personaggio mitico che è Mnemosine. Io la chiamerei Mnemosine, però sui vocabolari Mnemosine, la nostra grecista, è così bello Mnemosine, però anche Mnemosine, viene usato così. Ecco, Mnemosine, che è appunto la dea della memoria, sembra arrivare a creare quello spazio interiore dove la memoria può esserci anche nella corsa del tram. Sì, sì. Nella nostra mancanza di passato, nell'andare senza sapere dove, finalmente ci può essere un angolo, un antro, da qualche parte o dentro di noi, dove Mnemosine ci dice qualcosa, dove la nostra memoria ci dice qualcosa. Questa Mnemosine ricompare alla fine del libro, direi proprio nell'ultima poesia di Millantanni, come... questa volta una speranza, cioè in questa poesia che sembra così oggettiva, che perché voi avrete notato che mentre sono poesie che descrivono il percorso da trovare, perché non c'è un percorso, non c'è un senso se non quello che riusciamo a trovare. Anche loro sono vittime di questa fatica. Dentro a questi versi c'è la fatica dell'andare a trovare. Mnemosine porta qualcosa, una piccola utopia, che il senso sia già nostro, perché il nostro senso è quello già di esserci. Esserci è già avere il senso, non c'era da cercarlo ulteriormente. Il senso è quello che ci ha messo al mondo, siamo al mondo con un senso. Ecco, queste due figure mi sembra che, per quanto riguarda, insomma, mi sembra che abbiano un significato molto importante, creano un ordine dentro a questo libro, creano una speranza, direi, no? Ecco, se vuoi, se hai voglia, è Mnemosine la prima, è a pagina 69, Mnemosine la seconda è a 133. Sì, lo so. E lo so che lo sai, non dirmelo così. Così. Improvvisa Mnemosine, pagana madre, suscita forme, profili, figure, felicità e bellezza irta di spine, volse verso corpi liberi, nudi, cieli a catturare, o lampi, bagliori d'un temporale. Respira questa notte e tace, tace di sogni, utopie, realtà non riconosciute, il circo, la banda, tamburi, ottoni, parate disarmoniche, partiture, cacofonie, lingue di felice Babele. Transita la mente attraversamenti veloci, sotterranei percorsi di vuoto, silenziosa ombra sul collo, il fiato, la voce diffonde, respira. 133. È proprio all'ultima pagina. Sì. Dopo tutti i disastri che ci sono dentro al libro, una fiammella. Vedrai, ritorna Mnemosine, ancora intatto in bocca un seme tiene. Viene nel passo che serba la forma, il colore del segno, segue a occhi chiusi il rivo, il verso, il vento, come la prima volta, come la prima aurora, a dire il mondo, stupore della parola, ritorna camminando verso un margine di senso, con balsami e unguenti a ricucire viene strappi e macerie. In corpo porta un cuore selvaggio, e labbra, e braccia, memoria di vita tiene nel ventre, nella trama preziosa di un gioco sarà felice, fecondo l'incontro. Vedrai. Beh, prendiamolo come un augurio. Hai freddo? Chiudere in via per via sonora. Chiudiamo con un brano musicale. Sonora di queste belle parole, delle poesie, dei pensieri, e faccio il sommelo mio. Certo, mio, una certo. Mia composizione. Certo. Intitolata Ninna Nanna per nonni. Ah, bello. Direi che è tutto un programma. Certo. Anche dal punto di vista proprio del significato, direbbe. Ma ce l'abbiamo fatta a dire qualcosa oppure no? Sì, ce l'abbiamo fatta. Mistero. Thank you. Va bene. È il tuo libro nuovo? Con chi lo fai allora? Ancora non lo so. Vabbè, ma ci sono tanti altri, è pieno il mondo. Adesso vedrò. In questo momento sono un po' scocciata. Voglio dire che, se non funziona, che c'è l'aperitivo per chi vuole fermarsi un attimo.